Quindi in questi 4-5 mesi sono pratiche che avete appreso, sono metodologie che avete imparato, ma siete appena cominciato, non si vede nulla ancora. Ci vuole almeno un anno, due di pratica costante e poi si comincia a lavorare. Un annetto fatto bene e già nel secondo anno si comincia a vedere dei buoni risultati, se non altro a livello di calma, di presenza, si cominciano a sperimentare delle situazioni un po' più consolidate. Ecco. Sì, vi dicevo, il karma, dopo magari verso la fine ve ne parlerò un po' meglio, è la naturale chiusura di un percorso di questo tipo, perché questa sera ho queste due ultime robette teoriche, non porterò via tanto tempo, facciamo tanta pratica questa sera. È un po' la naturale chiusura, perché abbiamo fatto un percorso di apprendimento del metodo di base, di arricchimento con la parte della gentilezza, di approfondimento con la parte dell'inconscio. Chiaramente la parte dell'inconscio mette in moto tutto il meccanismo, che è quello di causa-effetto, no? Perché uno dice, beh, ma allora io creo un inconscio infame, più vivo in un mondo infame. Più sono in un mondo o in una famiglia o in una situazione che mi porta, che ne so, alla violenza o a subirla, eccetera, eccetera, più mi creo un inconscio malandato. Allora fare tutto gestito un po' dal caso, invece con la spiegazione del karma si arricchisce e si chiude un po' un cerchio. Ecco. Diciamo che si apre la porta della reincarnazione, perché chiaramente anche qui, cioè, è tutto legato, poi sapete, non è quasi impossibile scindere le cose, ma quando si parla di karma inevitabilmente si deve andare a parlare di reincarnazione. Io cercherò di stare molto distante da quel tema, anche se sono veramente intrecciate le due cose, e quindi qualche accenno dovrò farlo, anche se non è una materia di questi percorsi, e anche se capisco bene non è neanche il luogo adatto, non avendo le basi teoriche sufficienti per poter affrontare in maniera seria un discorso come quello della reincarnazione. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sì, guardi, sì. Esempio, sono anche per sapere. Ciao, Lenny, scusa, volevo chiedere per la cosa. Sì. E possa io essere in pace, sì. Possiate voi essere nella meditazione, me la voglio un po' a dirlo, e nella meditazione di tutti i giorni, diciamo, no, 20 minuti a mezz'ora, va bene farlo, diciamo, sì, sì. Oppure fare no, i Brahmavihara, se vi trovate bene, usateli sempre. Ma anche durante il giorno, non occorre essere in pratica meditativa. Se avete anche qualche minuto, utilizzare le frasi di Brahmavihara va benissimo. Ma è diverso che avere una meditazione senza, diciamo, senza parlare, senza entrare nella meditazione pura, nuda. Non è che inficia il percorso. Se io a un certo punto della meditazione mi sento di utilizzare frase di questo tipo, lo faccio senza nessun problema. Se è una forzatura, no, come in tutta la parte meditativa, non deve esserci nulla di forzato, non deve essere una roba che faccio perché sento che va bene, se no non va bene. Se mi sento che in quel momento la frase mi può aiutare, la utilizzo. Va bene, facciamo un po' di rilassamento, un po' di pratica. E poi cominciamo con la parte, un po' due cosette proprio. Poi la registrazione stasera, se qualcuno me la può girare, me la gira. Sì. Ok, posto. È registratore che si diventa per dire. Ok, allora ci mettiamo in Shavasana, ci stendiamo. Thank you. come sempre, una volta distesi, cominciamo già a portare la mente sul fatto che questo è un prendersi cura di noi stessi. È un momento di cura. Cioè ci prendiamo cura del nostro corpo in questo momento. Un corpo che spesso tendiamo a dimenticare o peggio, a trascurare. E quindi ogni tanto è buona cosa prendersi cura del nostro corpo. E questo è un modo. Quindi ascoltiamo bene il corpo, se ci sono tensioni cerchiamo di allentarle, alleviarle con i soliti metodi, mettiamo i cuscini, le maglie, lo copriamo, cerchiamo di, già nei primi momenti di questa pratica, mettere al massimo dell'agio il nostro corpo. Gli occhi sono morbidamente chiusi, le braccia sono lungo i fianchi, le palme possibilmente rivolte verso l'alto. Osserviamo bene anche ai piedi, attenzione perché se c'è un po' di tensione cerchiamo di ammorbidirli i piedi, di lasciarli un po' andare. Qualche respiro più profondo. Cercando proprio anche in espirazione, quando l'aria esce dal corpo, di lasciare andare e abbandonare. Poi piano piano, lentamente, lasciamo che l'attenzione si porti al corpo, cercando, per quanto c'è possibile, di rilassare le parti del corpo dove avvertiamo un po' di tensione. Potrebbero essere le spalle o la schiena. Potrei avere una contrazione, una lieve contrazione all'addome, oppure dei dolori alle gambe. Semplicemente porto l'attenzione in quei punti del corpo che avverto un po' più tesi, un po' appesantiti dalla giornata. Addirittura magari un po' contratti, mi aiuto con l'attenzione della mente. La mente va al punto e in espirazione cerco di rilassare. Espiro e lascio andare. Espiro e mollo. Non mi preoccupo se la mente inizia a vagare, va bene così. Con pazienza, con gentilezza, ritorno con costanza al corpo, cercando di rilassarlo, di abbandonare le tensioni. fosse rimane il corpo nella sua interezza. E partendo dai piedi, risalgo piano piano fino alla testa. E in ogni punto del corpo mi soffermo, piedi, polpacce, ginocchio. Rimango lì per qualche istante e mi chiedo come sto in questo punto del mio corpo, come mi sento. Potrei sentirmi un po' teso, potrei sentirmi completamente a mio agio o distratto. Ogni volta che mi soffermo in un punto del corpo, mi rivolgo questa domanda: come sto? Come mi sento? Se trovo un punto nel corpo nel quale mi sento completamente a mio agio, nel quale mi sento del tutto in pace, lì rimango. Rimango lì, perché questo è il mio posto sicuro, un luogo dove posso soffermarmi e rimanere in completa pace. Posso attraversare il corpo più volte anche, fino al momento in cui riuscirò a soffermarmi in un punto che mi darà grande pace, serenità, armonia. Il luogo sicuro è un punto del mio corpo nel quale sento che posso stare. Sento che posso fermarmi e lì sostare tranquillo, in maniera pacifica. colleghiamoci al nostro respiro, contattiamo il ritmo del respiro, osservando come sta il corpo in questo momento, dopo averlo rilassato un po' più a lungo, aver lasciato andare le tensioni ed avendo sostato nel nostro luogo sicuro. Come sta il mio corpo? Rilassato. E piano piano, lentamente, iniziamo a riprendere contatto con il nostro corpo. Facciamo come al solito, con piccoli movimenti delle estremità, dita dei piedi, dita delle mani. Torniamo a sentire le gambe, le braccia. Piano piano torniamo a lievitare il nostro corpo fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. Una volta riaperti gli occhi, però rimaniamo ancora un po' fermi, cercando di riprendere contatto con l'ambiente circostante. E poi lentamente, quando sentiamo che per noi è venuto il momento, ci rimetteremo seduti sul tappetino, ricordando come sempre di ruotare su un fianco per non danneggiare la schiena. E senza perdere compattezza, senza lasciare che i pensieri comincino di nuovo ad occupare la nostra mente, ci mettiamo in una posizione di meditazione per una breve pratica di presenza. La schiena è sufficientemente diritta, il mento lievemente abbassato. Diamoci sempre qualche momento per sistemare bene il corpo e poi vivere un po' di immobilità. Raggiungiamo la nostra posizione di meditazione, ormai una posizione che si va via via consolidando. E riprendiamo la stessa presenza di qualche minuto fa, nel momento della pratica distesa. Lasciamo nuovamente che l'attenzione si appoggi al respiro. Come sempre è un'attenzione morbida, non vi è sforzo. Semplicemente osserviamo tutto ciò che accade nel corpo, tutto ciò che accade nella mente. È una semplice osservazione. Tutti i fenomeni, per loro natura, appaiono e scompaiono. Nascono, si manifestano, muoiono. Ogni fenomeno presente nella nostra mente ed ogni sensazione che sorge dal nostro corpo sottostà a questa legge. Il nostro compito è quello di osservare con attenzione, ma un certo distacco, tutto ciò che sorge dalla mente e dalle sensazioni del corpo. Questa è l'impermanenza. siamo soliti fare, riprendiamo contatto col corpo senza fretta, riaffiariamo lentamente fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. Di luce. Proviamo anche a verbalizzare. Com'è andata questa pratica? Facciamo un veloce giro e mi dite. Chi vuole, naturalmente si dice passo, come sempre, com'è andata la pratica del luogo sicuro, com'è stata e cosa ha prodotto. Luogo sicuro, quando abbiamo fatto la distesa. Cominciamo da qui. Passo. Passo. Sicuro l'ho trovato nel cuore. E sensazione era di pace. Pace. E ogni tanto scappavo in qualche altra posizione del corpo, però non trovavo. Trovando lì, però c'era. Il punto. Ok. Dove mi sentivo. Grazie. Grazie a te. Intendi questa pratica di stasera? La pratica è quella da distesi, in cui vi ho guidato e vi ho chiesto di vedere quale luogo del corpo vi dava maggiore pace. Non è necessario che magari la prima volta non stesso niente, però sì. Sì, abbiamo fatto tanti giri per trovarlo, che poi non so neanche se è quello definitivo, comunque nel petto. Nel petto. Parte alta, sì. Lì c'era più pace, diciamo. C'era più pace. Ok, grazie. Io sono partito con, non avevo molta connessione con le varie parti del corpo, poi mi è sorto un pensiero, mentre magari ero ancora nella parte bassa, che probabilmente il mio punto di pace sarebbe stato il viso. E quindi mi veniva un po' la fretta di andare lì. Adesso poi passa gli altri tre. Quindi comunque via via sono passato tre parti, il mio luogo avevo trovato piacevolezza e certo. Era proprio il volto. Sì, sì, sì, sì. Sì, di solito può capitare che nel momento in cui lo dico c'è già questo collegamento diretto, senza dover cercare. E se no si cerca. Non è detto che si trovi, però per te è il volto. Grazie. Anche io la parte del petto. Sì. Ok, grazie. Passo. Io più che altro ho fatto pace con le varie parti. Quelle che normalmente non. O sottovalto, o non gli do peso, o non mi piacciono. Diciamo che ho fatto pace, quindi. Beh, e ho ringraziato. È già tanto. Eh sì, è una bella cosa. Certo. Grazie. Per me il luogo va decisamente all'utero. L'utero? Sì. Certo. Ma perché connesso, come dire, alla pratiche precedenti. Ah, ecco. Certo. Sì, che me l'avevano fatto individuale e quindi... Sei andata già lì. Ecco, sì, l'immagine certo. Arriva potente subito. Sì. Poi quando ho pensato, beh, ma al di là di quello potrei provare a sentire altre parti, così effettivamente è la parte del petto, sì. però se c'è già un luogo sicuro. Infatti, anche perché c'è un'immagine proprio che ti lega. Sì, sì. Se è fatta con altre pratiche, si va bene. Certo. Grazie. Per me è stata la testa, nel senso che stasera ho tanto mal di testa, per cui più che altro proprio ho focalizzato lì. Io sono stata veramente veloce tutte le altre parti, sia da distesa che poi comunque da qui, ho cercato proprio tanto di distendere, di mollare in modo... Ha funzionato? Allora, in parte sì, si è concentrato però su quest'occhio, posso adesso, ecco. Però insomma, con un po' più di tempo forse. Sì, prima era tutta conto che la parte qua sopra, invece che si è concentrato proprio attorno all'occhio, esatto. Okay. Però... Rimani comunque compatta. Sì. Ok, grazie. Passo. Passo. Io non credo di averlo trovato ancora. Ok, non c'è problema. C'è né problema né fretta. Io ho testa, ma non sono sicura. Ok. Io non ho individuato un organo ben preciso. So che verso la fine, invece, mi sono sentita il corpo molto pesante, come se avessi una tuta dell'omino Michelin addosso. Ah, cioè, la percezione di essere le mie ossa più grandi di quelle che erano. Soprattutto il torace e le gambe. Come espansa? Come espansa, esatto. Esatto, proprio allargata. Ma la pressione come? Molto pesante da radicarmi a terra. Certo. Quindi proprio la percezione della stabilità del corpo così presente, così grande da radicarmi qui. Certo. È stata una bella sensazione. Bene, certo, certo. Grazie. Allora io... Sono in una condizione non favorevole qui sopra, da qui sopra sento tanta aria, per cui penso che il mio luogo sicuro, che è stranissimo questo luogo sicuro perché non lo è mai stato, è una cosa nuovissima, ma penso che sia condizionato da questo, dal freddo, è stato tutto qui dietro. Cioè sentivo come se qui proprio era un luogo sicuro, da entrambe le gambe. Da entrambe le strano mani. Perché io ho sempre freddo i piedi e le mani, ma proprio qua stavo da dire, bene, se posso dire. Certo, certo. Beh, in caso spostati fin qua, se ti dà proprio. Dai, cosa che tu da dire adesso? No, vuol fare mimo caldo. No, no, ma guarda, ti ringrazio, non voglio. Si sposta un po' di sposto qua, grazie. No, no, manco sì. Sarà che so che vedo che ti sei generoso. Ti ringrazio tanto. In realtà hai ragione che era sì. E voi vanno in materasso. Eh? Ma mi portavo via tutto, Non sapevo mai niente. Allora, il luogo sicuro è un altro dei tanti upaya che abbiamo imparato in questo percorso. Upaya, se non lo ricordate, perdonate. Gli upaya sono i mezzi abili, sono quegli aiuti che ci vengono dalla pratica e che diventano come dei ganci, e nel tempo più ce ne costruiamo e più la nostra cassetta degli attrezzi si riempie di cose che ci vengono utili. Quindi cosa vuol dire? In un momento di ansia, in un momento di tensione, in un momento di rabbia, a mano che andiamo avanti con la pratica, abbiamo detto che strutturiamo, irrobustiamo questo osservatore, questa sentinella, questa presenza interiore che sarà in grado di decidere se non farsi catturare, non farsi travolgere dalle emozioni negative o distruttive. E che cosa farà? Si rifugierà, ad esempio, nel luogo sicuro. Oppure abbiamo provato a vedere... c'è il gesto, c'è la parola, abbiamo usato tante cose, le frasi di Brahmavihara, adesso non me le ricordo tutte, ma le abbiamo esplorate molto. Questo è un altro, cioè lo troviamo piano piano facendo la pratica di rilassamento frazionato. Se troviamo un luogo che ci porta maggiore benessere, maggiore pace, eccetera, in qualsiasi momento della giornata possiamo trovare rifugio lì e sollievo perché in quel luogo già abbiamo sperimentato di stare meglio, quindi lo utilizziamo come un rifugio, ok? Basta poco, bastano 5 minuti, 3 minuti di respiro, stando lì, ascoltandoci, e magari immediatamente sentiamo che nel giro di poco tempo, di solito, l'ansia tende a scemare, la rabbia tende a scemare, cioè dura tutto molto meno, soprattutto se sono emozioni negative. Non ho capito, ma il luogo di pace è sempre quello o cambia? Può cambiare nel tempo, però per un periodo di solito abbastanza lungo rimane quello, perché è come se lo caricassi anche mentalmente. Cioè mi trovo bene lì, ad esempio c'era un mio collega di corso che era, ricordo benissimo, era le dita del piede destro, una cosa stranissima, però lui lì trovava, ci ha provato più volte, eppure lì trovava la sua pace, no? E l'ho utilizzato per tanto tempo, poi è cambiato nel tempo, però per molto tempo lui andava lì e lì trovava come centratura, pace, si distaccava un po' da tutto quello che era il casino della vita, quando ci incrociamo in momenti un po' più difficili, e lì trovava rifugio. Però può cambiare nel tempo. Quando sentiamo che magari è più scarico e sentiamo che non dà più lo stesso benessere, magari come ricominciamo a fare questo lavoro di esplorazione fino a che lo troviamo. Spessissimo comunque è la parte del torace, a volte il volto, il viso, le mani, può capitare le mani. È chiaro che non vi ho detto nulla prima, perché sennò già si orientava, vi davo delle situazioni su cui magari poi vi avrei suggestionato. Usatelo, sono tutti strumentini che vengono utili, visto che insomma non è così difficile incrociare l'ansia durante questi anni, no? Basta impissare la televisione. No, chi ancora è così ardito, come gli arditi quelli che erano sul grappa nella prima guerra mondiale. Allora, vi leggo un paio di cose, perché mi hanno detto che ci sono ancora due punti molto piccolini su cui vorrei chiudere questo discorso dell'inconscio. È chiaro che non c'è alcuna pretesa di essere stati esaustivi, anzi il mio unico intento in un percorso di questo tipo è darvi alcuni strumenti dal punto di vista meditativo, chiaro, alcuni spunti di riflessione dal punto di vista teorico, ben conoscendo che si tratta di un argomento vastissimo, ma vastissimo già solo per la psicologia occidentale, figurarsi se andiamo alla ricerca di quella orientale. Quindi se di tutte le mie chiacchiere, va bene che se ci sono anche le registrazioni, quindi poi vi rimane una traccia su cui magari riascoltare, vi rimane impresso che il corso della vita porta inevitabilmente, quindi non è che è sbagliato o giusto, non c'è alcun giudizio in questo, ma inevitabilmente porta alla costituzione di una parte consapevole, di una parte invece nascosta, che nel tempo, attraverso le scelte e attraverso l'ambiente in cui viviamo, ha generato questa parte che abbiamo nominato, che è stata nominata ombra. Già questo, insomma, e in quest'ombra sono contenute vario materiale psichico vario, così, sia nel bene che nel male, così come sono nascosti alcuni tesori che mi sono azzardato a chiamare talenti, così come invece sono state messi là, insomma, delle cose che non vengono molto accettate dalla società così come la conosciamo. Questo per me è più che sufficiente. La riflessione che dovrebbe venire poi è: ma allora se sono così, allora significa che c'è una parte di me non conosciuta e che forse vale la pena nel tempo di esplorare. E adesso vi leggo anche i motivi, anche se ve li ho già detti. Allora, vi leggo prima questi e poi andiamo via via verso anche l'altro punto che è meno importante, ma è una riflessione che vorrei portare. Il riconoscimento della propria ombra e la sua integrazione cosciente costituiscono il primo ed imprescindibile passo verso qualunque cambiamento. Ecco. Siccome questo è il mondo in cui bisogna trasformarsi, cambiare, migliorare, no? Dappertutto, non c'è un corso dove non ti dicono che non si muterà mai nulla nella propria vita se prima non ci si prende carico di ciò che è la nostra ombra. E ciò che è stato. Com'è? Che è ciò che è stato. Che è ciò che è stato e che è lì, in attesa in qualche modo di essere visto. Come si può infatti prescindere dal potenziale trasformativo giacente nelle aree a noi non direttamente accessibili? Ciò che appare in tutta la sua evidenza, che è in poche parole racchiuso nella sfera del noto, del conosciuto, non riesce ad essere sufficiente a permettere un pieno sviluppo. Ciò che noi già sappiamo di noi stessi è troppo parziale per permetterci di crescere. Ok? Una riflessione, perché noi siamo, quando ci vediamo in qualche modo, ci notiamo, molto spesso in noi c'è già una visione di completezza, come no? Ci sentiamo in qualche maniera completi ed integri, fin tanto che la vita non ci porta di fronte ad un momento lieve o grave di sofferenza e lì sorge una parte sconosciuta che è invece la parte inconscia che in quel momento grida e ci chiede, vedi, non è tutto in armonia, c'è una parte di te che ancora possono soffrire. Allora, un documento molto lungo, ma questo cosa porta? Porta a quella che Jung ha chiamato individuazione. Individuazione è il nome che Jung ha dato a questo processo trasformativo, quello che vi ho appena accennato, al processo trasformativo della psiche umana. Esso consiste nella liberazione da parte dell'individuo di tutte le potenzialità inespresse di cui è portatore. È importante questo. Liberazione da parte dell'individuo di tutte le potenzialità inespresse. Quante sono le nostre potenzialità inespresse? Questo può avvenire solo dopo un lungo percorso di riconciliazione delle opposizioni e delle tensioni che inevitabilmente si creano nel corso dello sviluppo, favorendo l'espressione di certi tratti a discapito di altri. Il fine ultimo del processo individuativo consiste nel raggiungimento del sé. Sé scritto con la S maiuscola. Quindi questo processo che piano piano riconosce ed integra queste parti che abbiamo individuato nell'ombra, riconosce, accetta ed integra, porta piano piano a questa espansione di coscienza che Jung ha chiamato individuazione e non è altro che l'essere prima o poi in totale contatto, sovrapposizione col sé, sé con la S maiuscola, quindi non l'ego ma diciamo così la nostra totalità spirituale, come dire che noi bastiamo noi stessi nel momento in cui siamo completamente individuati. Secondo questa visione siamo assolutamente a noi bastevoli. L'attuarsi del processo che porta alla realizzazione del sé attraverso l'individuazione consta di varie tappe. Ogni tappa, sapete che io qui pendo sempre perché ogni volta che mi si parla di percorso e tappe io vado in brodo di giuggiole perché mi vengono in mente 64 miti. Ogni mito che parla di percorsi a tappe sono tutti miti che hanno a che fare con un percorso iniziatico che porta a questo, alla riunione, così col nostro sé spirituale, le 12 fatiche di Ercole, il viaggio di Ulisse, Gilgamesh, eccetera, eccetera, eccetera. Varie tappe. Ogni tappa del percorso è caratterizzata dal presentarsi di un differente motivo archetipico, che nei percorsi mitologici si chiama fatica o si chiama incontro con, diciamo così, può essere una parte di sé che si chiama archetipo, che può essere ad esempio il maestro, il mago, lo stregone, il guerriero, il fanciullo, la grande madre. Sono tutte forme che poi sono state caratterizzate da figure fiabesche, mitologiche, ma sono incontri iniziatici, cioè il superamento dell'incontro con questa forma archetipica ci porta ad integrarla e a ripartire nel nostro viaggio in trasformato. Il che non deve essere inteso come una successione cronologica di momenti che vengono risolti e superati, quanto piuttosto un lento progredire di carattere circolare nel quale ci si trova a confrontarsi in modo via via più profondo con il nostro inconscio. Due parole anche qui. La via, diciamo così, iniziatica o spirituale ha una forma spiraliforme, cioè non è né lineare né ciclica. Lineare perché non è che si vivono tutte e solo esperienze nuove, nemmeno ciclica perché si vivono esattamente le stesse esperienze, ma è spiraliforme, cioè si vivono esperienze simili a stati diversi di consapevolezza. Cioè, se io mi metto sopra la spirale, vedo che attraverso lo stesso punto, ma ad una voluta della spirale più elevata. Perché? Perché nel primo passaggio, se non sono completamente rimbambito, no? O se semplicemente sono uno zombie che si fa trasportare dalla vita, al primo passaggio in questo incrocio di dolore, parliamo di sofferenza, inizio a farmi delle domande, inizio a convivere con questa parte di me, inizio a conoscerla, inizio a provare ad integrarla e ad accettarla, ora che sono qui. Incontrerò di nuovo quella determinata situazione in altri anni o in altri mesi, con altre persone, in altri ambienti, e rivivrò quel momento di sofferenza, ma con nuovi strumenti. Quindi non è sovrapponibile, ma sarò ad una voluta più elevata. Fino a quando quella determinata forma di esperienza, in questo caso stiamo parlando di sofferenza, non avrà più nulla da essere compresa, perché sarà stata totalmente individuata nel sé. È chiaro come funziona? Sì, sì, è molto chiaro. Bene. Almeno per me. Se ci no, se ci sono domande, io sono qua. Anche perché si sperimentano queste cose. Sì, sì. Si ascolta. Sì, sì, sì, si sperimentano proprio. Sì, sono proprio sperimentali, diciamo, in maniera galileiana quasi. Ogni aspetto di noi che viene in qualche modo respinto dalla coscienza o rifiutato si sviluppa necessariamente in forma autonoma ed inconscia e sarà espresso come parte dell'ombra contro la nostra stessa volontà e senza che ce ne possiamo rendere conto. Ecco, questo è un passaggio fondamentale nel processo di individuazione. Perché? Perché proprio questa sincrasia, questa discrepanza tra il fatto di sentirsi già a posto e il fatto che invece ci sia tutto un ambito psichico, magmatico, profondo, inesplorato, che rimane lì fin tanto che la vita non lo snida, se non siamo noi in grado di andare a esplorare, è la vita che lo sfida. Ecco, in quale modo? Con le esperienze. Nel momento in cui noi neghiamo queste parti di noi, semplicemente loro, come ho già avuto più volte modo di dirvi, non solo si manifestano, ma prendono in mano le redini. E quindi ci troviamo in balia di queste parti. Quindi, quando dice in forma autonoma e contro la nostra stessa volontà, intende proprio che per certi momenti della nostra vita queste parti represse per troppo tempo semplicemente non solo si fanno sentire, ma in certi momenti possono proprio prendere in mano la situazione. E per cui noi ci sentiamo a volte in balia della vita. Abbiamo dunque due cose messe nel sacco, due cose, facendo questo percorso. Rifiuti e tesori, sacco intende l'ombra, rifiuti e tesori. I primi vengono a galla senza che noi li si riesca a controllare, i rifiuti. I secondi invece vengono ammucchiati indiscriminatamente assieme ai rifiuti, poiché non siamo in grado di riconoscere nessuno dei due come appartenenti a noi. Allora, i tesori abbiamo detto che potrebbero essere delle qualità inespresse, ma seppellite nel tempo, e purtroppo nel tempo e un po' dimenticate, ormai non siamo più in grado di riconoscerle, a meno che di non cominciare a togliere un po' di rifiuti. E allora, togliendo un po' di rifiuti, si integra, diciamo così, si individua, come direbbe Jung, e prima o poi si reincontra uno di questi tesori. Non è così difficile che questo tipo di cammino, fatto in questi termini, porti qualcuno di voi. A me è successo l'altro giorno, un ragazzo che ha fatto un percorso con me 4 o 5 anni fa, non ha più smesso, anche perché lui doveva risollevarsi da un problema fisico e ci è riuscito anche attraverso la meditazione. E da un anno e mezzo a questa parte si è appassionato di arte e sta cominciando a dipingere. E fa, io non ci avrei mai pensato in tutta la mia vita, ma a forza di fare questo tipo di lavoro in lui è emersa questo desiderio, probabilmente a togliere, ha incrociato questo tesoro, un tesoro che probabilmente aveva nascosto o gettato, perché sai, fa un lavoro anche molto particolare in mezzo ai meccanici, alle macchine, alle cose, per cui un uomo col pennello in mano in quegli ambienti forse non è il massimo della vita, no? E quindi sai, ci si conforma e si mollano queste cose. E proprio ci siamo trovati recentemente, mentre sai, dentro mi è proprio venuto questo desiderio di sperimentare la pittura. Vengono spontaneamente, non si cercano queste cose. Mi chiedevo se la meditazione, non so se c'entra con questo discorso, ma c'entra con ragazzi. La meditazione da sola può portare a fare questo tipo di lavoro, oppure se la meditazione deve essere sempre accompagnata anche da uno studio, e se lo studio ti porta più avanti e la meditazione si integrano entrambe le due cose, oppure la sola meditazione? Questo io adesso posso rispondere personalmente, nel senso che io pendo troppo dalla parte, me ne accorgo, lo so, ne sono consapevole, troppo dalla parte che è necessaria anche una parte di studio. Però questa è veramente una mia visione, non è scritto da nessuna parte. Per me non è scritto. Io mi sono confrontato con gli insegnanti miei, mi sono confrontato con altri maestri, tutti mi hanno detto la stessa cosa, però io non ho una controprova, cioè non so se ci sono degli illuminati che non sanno una Madonna, ad esempio tutta una Madonna, nel senso che non studia, non ha studiato niente e ci arrivano semplicemente perché si applicano, però la storia è piena di queste persone, perché tantissimi santi del cristianesimo probabilmente non sapevano fare neanche la loro firma, così come ad esempio nello sciamanesimo sudamericano, che è quello che io ho studiato meglio per anni, io non penso che quegli sciamani li conoscessero tanto, semplicemente avevano aperto dei varchi nelle realtà vicine, diciamo, e si erano fatti l'esperienza così, quindi non saprei dirti. Per me è essenziale, per come sono fatto io, lo studio è essenziale. Io infatti dedico, penso, più tempo allo studio che alla pratica, anche se la pratica è più intensa dello studio, quindi insomma, forse qui paro. Allora, i secondi vengono ammucchiati indiscriminatamente insieme ai rifiuti, eccetera, eccetera. Per riappropriarci dei tesori, buttati senza distinzione nel sacco assieme ai rifiuti e dalle scorie, dobbiamo prima svuotare il sacco e ridiventare consapevoli di ciò che ci appartiene. Proprio come degli alchimisti, partiremo dal piombo e dai procedimenti infimi della Nigredo per ritrovare l'oro insidiosamente camuffato e nascosto nel metallo più vile. sapete, non so se sapete, ma la pratica dell'alchimia prevede i tre passaggi, no? Dal piombo all'oro, all'ingredo, che è la pratica al grezzo, l'albedo e la rubedo, che è insomma un affinamento via via della nostra... L'alchimia è tutta una metafora, no? È completamente una metafora. È il lavorare la materia grezza della personalità per condurla poi a diventare il diamante, che è la nostra parte più spirituale. Va bene, spero che insomma questa ulteriore e ultima piccolo apporto teorico possa esservi utile. Il secondo pezzettino, e poi pratichiamo, è questo. Allora, la riflessione è ora sulla società, insomma, sulle comunità, perché questo mi introduce un po' al concetto di karma, no? Le comunità, ogni comunità, anche le nazioni, secondo certe visioni, qui non so, se certamente Jung si è spinto a questo, però poi non so se altri hanno seguito le sue tracce. Quando vige una, diciamo così, una vigono una serie di norme abbastanza condivise nelle società, anche gli inconsci che si vengono a creare sono simili. Provo a spiegarmi meglio. Se in una società come la nostra ci sono tutta una serie di regole morali e di relazione da vivere, significa che tutti più o meno, ognuno con la sua indole, ognuno con la sua educazione, eccetera, eccetera, ma riceveremo un tipo di educazione simile, sì o no? Si conforma in pratica. Ci conformiamo ad una certa modalità. Vi faccio anche l'esempio un po' più specifico. Io, che ho girato molto l'Italia per lavoro, ho riscontrato un certo tipo di mentalità in Veneto, ma un tipo di mentalità diverso nell'Emilia. E questo tipo di mentalità veneto è un po' più chiuso, un po' più, diciamo così, legato a delle tradizioni, legato anche molto di più alla religione. E quando ho lavorato per tanto tempo nell'Emilia, ad esempio, c'è stata una visione un po' diversa, no? C'è una visione della vita più aperta, per tanti motivi culturali. Ma quindi significa che l'individuo che nasce qui, o che nasce in Brasile, o che nasce in Germania, riceverà un'educazione simile ma non identica. Questa educazione simile ma non identica produrrà anche un approccio relazionale, eccetera, diverso, che creerà inconsci diversi, giusto? Sì. Questi inconsci diversi, essendo abbastanza comuni nelle comunità in cui viviamo si chiamano inconsci collettivi. L'inconscio collettivo è stato formulato come teoria da Jung, ma Jung aveva anche conoscenze profonde di esoterismo, eccetera, eccetera, perché in psicologia esoterica si parla di isole acasiche, ad esempio, o si parla di comunità che condividono uno stesso percorso animico. Chiaro che qui, vedete, ci stiamo un po' inoltrando su altre cose che riguardano il karma. Quindi significa che, e qui mi aggancio un pochino a giovedì prossimo, proprio lievemente, significa che se nulla accade per caso, anche il progetto anima, che prevede di incarnarsi in una certa personalità, con certe qualità, con una certa psiche, ma anche in un certo ambiente, produrrà anche un certo tipo di inconscio, con cui l'anima dovrà lavorare per integrare e per continuare questo cammino. Allora, visto in questa ottica, allora tutto acquisisce un senso molto più elevato, molto più grande. Non ci inoltreremo mai su cose molto delicate, molto approfondite, perché non abbiamo né il tempo né la modalità, ma ci sono delle vie di psicologia spirituale o psicologia esoterica che se ne stanno occupando da anni in maniera molto proficua. Le frange, diciamo così, più vicine a queste psicologie orientali, un po' più profonde, che prevedono la reincarnazione, sono ad esempio la transpersonale o ancora di più la psicosintesi di Assagioli. Ma poi ci sono tutta una serie di altre branche della psicologia che non sono riconosciute come ufficiali, ma che sono molto ferrate, come ad esempio la psicologia dei sette raggi, di cui voi penso non avete mai sentito parlare, che in America ha degli istituti e anche qui in Europa viene studiata molto, e io mi sono formato quasi esclusivamente su quella prima di allargare l'altro, ok? Quindi questo per dire cosa? Che se il progetto, a prescindere da come lo pensiate, se il progetto è più grande di un'unica esistenza, tutto rientra in una visione molto ampia, che è quella del percorso dell'anima. Quindi non siamo arrivati nel luogo più sfigato o più fortunato del mondo, eccetera, o della famiglia, ma semplicemente l'ambiente morale e l'ambiente sociale, relazionale in cui ci siamo incarnati, e anche il tempo, è relativo a questo progetto, ok? Ma io non lo capisco tanto questo manuale, perché che tu lo spieghi, insomma, non lo capisco, però, per come probabilmente ci vuole, bisogna sapere di più per capire questa cosa. Non secondo me sì, come l'hai detto, cioè, nel senso che rimanendo sempre molto sul vago, perché altrimenti apriamo strade sulle quali mi tocca utilizzare anche un modo di parlare mi perdereste per strada. Semplicemente non si tratta più della sola personalità che nasce, vive e muore senza un senso reale, ma si tratta di un percorso animico fatto di tante tappe. Una di queste tappe ha necessità di questo tipo di esperienza, e questo tipo di esperienza prevede che noi acquisiamo dall'ambiente, insegnanti, genitori, ambiente stesso, la morale del Veneto è diversa dalla morale del Venezuela, anche se ormai è diventato tutto un po' un pastone, e questo tipo è, diciamo, utile a fare questo tipo di percorso, ok? Quindi io sono nata in Veneto perché mi conveniva per il tipo di percorso che dovevo fare. Non tu, l'anima. Sì, l'anima, intendo dire l'anima. Certo. Se no avrei deciso di nascere da un'altra parte, perché forse perché fossi predisposta, certo, a fare il tipo di percorso. Allora uno potrebbe dirmi, beh, ma come faccio a conoscere il progetto dell'anima? Al nostro stadio non riusciamo a conoscere. A meno che non si faccia uno studio approfondito, ad esempio, sui raggi e sulle varie, diciamo così, sfumature energetiche dell'anima, lì chiaramente ci vuole uno studio completamente diverso. Io sono stato per 13 anni all'interno di una scuola che insegnava questo, per cui lì si comincia a intravedere un percorso, capite? Mentre adesso lasciamo perdere tutta questa cosa qua, quello che mi interessa è che anche l'ambiente in cui siamo produce un tipo di inconscio che è relativo a questo ambiente, ma che non è una sfiga o una fortuna, è semplicemente una modalità per procedere nel nostro cammino, capite? Ecco. Come sempre sono spunti di riflessione, non fatevi prendere dal panico o da mettere sulla via di testa stasera, ecco. Potrebbe anche essere, sono sempre tutti spunti di riflessione. Come ad esempio i vari tipi di società di cambiamento producono le patologie. Io questo l'ho sempre pensato, sì, certo. Ma l'ho pensato da me proprio, insomma. Beh, insomma, ci sono fior di testi anche che dicono che ci sono anche che questi, che molto spesso le società in cui viviamo producono anche, per come viviamo, producono degli stati di malessere che possono sfociare. Va bene, ci sono domande su questa? Tutto abbastanza chiaro? Io volevo solo chiederti una cosa, da dove hai tratto, da che libro hai tratto? Questa roba qua? È lo studio di un dottore, se dopo non mi ricordo, io, perché prendo i pezzi e faccio dei collage, però forse ho scritto il riferimento da qualche parte, magari Ale mi chiedi e se riesco a risalire metto di due o tre brani, perché io faccio dei collage leggendo dei libri, mi segno delle cose, poi le copio e faccio dei file unici, se no ti tocca avere 50 libri. Siccome mi ritengo uno studente studioso, insomma, allora faccio queste cose, ho cartelle piene di file, ma che poi su alcune mette riferimenti, su alcune no. Perché si riferisce a Jung? Questo sì, questo è tutto riferito a Jung. Ma è uno che lo rivede? Sì, deve essere uno psichiatra, un psicologo, questo non lo so. Allora Ale, mi raccomando, cerca di... Da studiare. Non studiare. Da. Di chiedergli... Gli ero parlo. Tutto abbastanza chiaro? Bellissimo. Bene, anche spero interessante, insomma. Sì, molto, ci riguarda molto. Sì, beh, siamo fatti così, penso che sia abbastanza interessante almeno sapere come siamo fatti, anche perché poi se non sappiamo che materiale abbiamo in mano è difficile anche intraprendere una strada, no? Quando si dice nelle strade, nei percorsi di conoscenza di sé, di autoconoscenza, ce ne sono a tonnellate, ma quasi nessuno parte da queste cose, quasi nessuno. Invece secondo me è essenziale, non può esserci trasformazione se non c'è prima conoscenza del materiale da trasformare. Mi sembra una banalità quasi, no? Perché mi sembra una banalità, ma normalmente i percorsi che si, come dicevo, ce ne sono tantissimi, ti danno tutta una serie di cose. Anch'io lo faccio, vi do una tecnica, vi do un metodo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che vi chiedo, ecco perché nel percorso ho messo questa fase, è di osservare qual è il vostro materiale psicologico adesso, perché il metodo che può andare bene, o la pratica meditativa che può andare bene per una persona solare magari è diversa da una persona lunare, magari una frase come possa io essere in pace con me stesso può irritare uno e mettere in pace l'altro, Quindi sperimentate il più possibile e cercate di conoscervi proprio attraverso questi strumenti, sapere quali sono le nostre parti, come emergono, come affiorano, smettere di giudicare il fuori, ma sentire e pensare che sono parti di noi che si mettono in relazione, anche violentemente, anche soffrendo, anche piangendo, anche lamentandosi, ma sono parti di noi che si mettono in contatto con l'esterno. Questo è fondamentale, perché così riusciamo in qualche maniera a vedere qual è la nostra situazione e poi cominciamo a lavorare. Ecco. Mi chiedevo, ma uno che arriva, ad esempio un'anziana come me, che arriva a una certa età e ha vissuto delle cose, cioè perché dovrebbe vivere per mangiare un gelato, per avere il gusto di mangiare un gelato? Cioè, penso, sì, va bene, no, va bene, però è riduttivo. Sì. Cioè, oppure uno è meglio che si spari subito, ecco. Tanto sa come avviene. No? Mi sembra una cosa buona. C'è dopo? È meglio che si spari. Invece dice, no, guarda, io sono qui perché sto ricercando, magari fra un anno andrò meglio, nel senso non ho speranza, ma vedo che già delle cose le ho elaborate e questo mi permette di vivere ancora. Io penso che però ci sia un momento giusto per ogni cosa, nel senso che se prendo una persona che semplicemente dal mio punto di vista vive in maniera superficiale, ma lei ha trovato un suo equilibrio, io chi sono per potergli dire guarda che stai sprecando una vita, come succede molto spesso negli ambienti spirituali, sapete, purtroppo sono quelli dove più emergono queste cose. Chi sono io per dirgli questo è il suo, abbiamo detto che siamo in un cammino a spirale, no? Lei in un momento che è di totale adesione anche ad una vita completamente superficiale, ha trovato un suo equilibrio, se la giocherà nella prossima. Sì, sì, il mio non era un giudizio. No, nel senso che anzi, io sono d'accordo. Essere così. Sono d'accordo. Arriverà. Magari la prossima vita la passiamo da gelati. Cioè, volevo essere così spensierato. Ma non dipende però, da noi. Però vedo tanto male, cioè in queste persone, vedo quelli che stanno vicino a me, vedo tanta tristezza, tanto anche se mangiano gelato. Certo. Cioè, voglio dire, li vedo... Allora, ma non voglio giudicare. No, però abbiamo fatto questo percorso per dire anche che se io vedo nell'altro la tristezza, significa che la proiezione. Sto proiettando. Non sempre, non è matematica, potrebbe anche non essere così. Nessuno però può venirvi a fare questa analisi, ma se io sento la tristezza, probabilmente in me c'è la tristezza. Però io ho detto tristezza per non dire un'altra cosa. Va bene. No, perché non potevo entrare in merito. Perché No, ma ho capito, però stiamo parlando proprio delle emozioni negative o distruttive. Stiamo dicendo, se sento che sto proiettando tristezza, in qualche maniera ancora vibra in me. Lavoro su quella, è molto più interessante, a mio modo di vedere, poi uno chiaramente nella vita... A mio modo di vedere è molto più interessante lavorare su quella, su quel mio sentire. Perché mi sento triste? Perché mi sento di dire che lui, vedo che fa una vita, o lei, fanno una vita triste? Se fanno una vita triste potrebbero esserci due cose da fare. Gli do una mano per risollevarli? No. Allora provo. Senso ha? Prova a sollevare me stessa. No? Che senso ha? Io proprio ho lottato tutta la vita per sollevare le mie sorelle. Ma non sto parlando di te, sto parlando in generale. Ma non ha senso per nessuno, perché nessuno può questo sollevare un altro. Questo assolutismo, io però faccio un po' fatica. Nessuno può sollevare un altro, lo so anch'io, nel senso che non sappiamo che anima abbiamo davanti. Però possiamo con tutta sincerità dare una mano. Cioè, io ho incontrato delle persone che hanno detto delle piccole frasi che a me hanno cambiato la vita. Certo. Ironicamente, Luigia, sei giovane, non sei anziana. Animicamente? Sì, non ho età come anima. No, senso. Sì, certo. Allora, esperienze che poi portano. Sì. Cose che non so come esprimere il concetto, però. Io spero che se l'anima, dando per scontato che l'anima abbia un cammino da fare, sì. E abbia delle altre vite, degli altri percorsi. Certo. Io spero che se adesso sono qui e mi sto facendo delle domande, certo, non è possibile prevederlo, ma io spero che nella prossima vita non sia una regressione. Spero che sia la propria spirale sta cosa, perché... ma sai, anche qui è meglio, mi piace dibattere su queste cose. Sai, questo però entra molto la personalità, perché che cosa intendi tu per regressione? Se io come anima, seguitemi su questa cosa perché è molto importante, per regressione intendo che la prossima sarà una vita di completa felicità e di completa beatitudine, potrebbe essere una vita di totale dolore, completo dolore, ma è la vita che mi fa fare il vero salto in avanti. L'anima bada a questo, bada al corpo, perché è come se io privilegiassi che il mio cappotto stesse bene a prescindere da come sto io, ma il cappotto viene indossato per una stagione, così secondo questa visione, secondo le visioni di queste vie spirituali, il corpo, l'anima lo indossa per una stagione e lo indossa semplicemente perché serve allo scopo. Se lo scopo è fare un salto in avanti, potrebbe essere una vita di completo dolore. Difatti, cioè, non so se ti ha... assicurante. Non so se... Io per regressione intendevo l'altro passo. L'illusione di consapevolezza. No, quello non può accadere. Non può accadere. È una missione che siamo venuti a fare qua l'anima. Cioè, la mia anima decide che in questa vita io teoricamente ho un qualcosa da sistemare. Certo. Qui sto sperimentando la sistemazione o meno, se poi mi riesce bene nella mia prossima incarnazione andrò a sanare qualcos'altro. Certo. Oppure se non sistemo niente in questo giro mi torni. Si ripete torni. In questo senso. E torna anche nella stessa vita, no? La famosa coazione a ripetere di cui abbiamo parlato più volte. Quindi diciamo che si fa il massimo per espandere la propria consapevolezza, non in maniera egoistica, ma attraverso ad esempio il servizio, il dono, no? Questo è il massimo, una delle pratiche più importanti delle vie spirituali è proprio il servizio all'altro. E da questo punto di vista quindi il cammino non può regredire, nel senso che non è che torno indietro dal punto di vista della consapevolezza, questo sì, ma non riguarda il benessere della personalità. Questo sì, sì, sì, sì. Non riguarda il benessere. Non è che più vado avanti e più mi incarnerò in persone ricche, famose, no, no, chiaro, oppure che vivono con grande agio. Non c'entra nulla, grazie a Dio non c'entra nulla, nel senso che non c'è niente di inerente alla... è proprio il tipo di esperienza che posso fare nei sobborghi di Bogotà con un'aspettativa di vita di 15 giorni o in un attico di Manhattan, figlio di uno dei più ricchi al mondo, però abbiamo visto che non, questo non ha alcuna attinenza. Ve lo ricordate uno dei figli dei rampolli della famiglia Fiat che si è suicidato? Sì, era straricco, non sapeva dove mettere i soldi, ma lì lui ha incrociato un momento di vita terribile, probabilmente ha vissuto una grande depressione e lì non c'è verso, quindi ha sono anime travagliate, magari, no? Guardate tanti artisti anche. Quindi io slegherei le due cose e osserverei soprattutto il nostro modo. Questo ci slega anche da una certa visione della mondanità. La mondanità ha tutta una sua ragione d'essere. Ve l'ho detto tante volte, trovare il giusto modo di vivere, come si chiamano, quando si sta bene, insomma, quando si hanno le cose che servono per vivere abbastanza in pace, tranquilli, anche economicamente, è giusto, ma non ha attinenza col percorso interiore. Io però non avevo capito che si parlasse di questa cosa, della richiesta, sinceramente. Non avevo capito che Vai, adesso l'hai capito? No, non ho capito. Nel senso che non è attinente, beh sì, no, sono, penso di aver spiegato bene, non c'è attinenza. Il percorso dell'anima non ha collegamenti con la parte, diciamo così, mondana. Possiamo trovare un grande santo all'interno di famiglia molto ricca, ad esempio il Buddha si è incarnato in una famiglia molto ricca di guerrieri, di kshatriya, così come possiamo trovare ad esempio dei maestri che sono assolutamente nella più totale povertà. Quindi non c'è una correlazione. Io credo che un San Francesco d'Assisi avesse un buon livello. Mamma mia, super livello. Molto spesso si capita, che molto spesso capita anche quello, quindi ecco, da questo punto di vista, perché ognuno fa un cammino che è il suo, che è con quel corredo, abbiamo detto, genetico e indole che si porta da altre vite, perché il corredo genetico è importante, non è che non è importante, non neghiamocelo. Per cui, almeno in l'antroposofia ci viene molto in aiuto, quando si sceglie la famiglia non è una scelta della personalità, ma è una scelta dell'anima che sa individuare lì dove ci sarà poi il corredo genetico utile e poi lì si parte per questa esperienza. Insomma. Ma ciò che più mi interessa per questo percorso, e poi se ci vedremo la settimana prossima, è che questo genera anche delle comunità che hanno una visione simile, che generano dei corredi, diciamo così, psichici, delle ombre che si assomigliano, ok? E che quindi incidono nella vita nello stesso modo. Basta che, guardate, venga uno dall'esterno, qui a me è capitato nel luogo dove lavoravo, veniva qualcuno proprio dalla Toscana o dall'Emilia e nel giro di qualche giorno fa, mi dicevo, come siete messi? Dove siete chiusi, grigi? No, non per quello. No, non per sempre di lavorare, sempre da ma no, ma un po' chiusi, un po' grigi, insomma, no? Poi abbiamo altre qualità, chiaramente, però magari qualcuno venendo dall'esterno si accorge di questo. Ma che ha molta ammirazione, comunque. Quindi ho clienti in Emilia, in Friuli, l'ammirazione, però lui sa, dal punto di vista, perché anche qua bisogna andare a indagare. Sì, sì, comunque, senza fare di tutta la si parla di isole acasiche o di inconsci collettivi. L'inconscio collettivo incide molto. Jung fa proprio anche l'esempio, ad esempio, delle guerre, no? Fa l'esempio delle nazioni che si scontrano con inconsci che vengono alimentati anche da governi, da cose di questo tipo, da poteri, e queste grandi masse psichiche si scontrano anche a livello, adesso anche a livello mediatico, ma anche per una visione completamente diversa della vita. Ad esempio, i grandi assi che c'erano prima, dopo la seconda guerra mondiale, quindi tutta l'asse, tutto l'ambito, diciamo così, russo, aveva una visione della vita, e c'era tuttora per certi versi, molto diversa da quello che era invece la visione, ad esempio, americana, no? E quindi questi costituiscono anche degli inconsci che sono molto diversi tra loro, ma che combaciano all'interno della stessa nazione. Per cui adesso anche per questo c'è questo scontro in atto, dicevo, no, un pochettino. Però diciamo così, sia dalla parte che dall'altra. Però ci sono queste, se noi osserviamo, facciamo un'analisi di questo tipo, vediamo che è facile. E poi una cosa invece più importante, che quasi me ne dimenticavo, nell'ambito familiare, e qui ad esempio c'è tutta l'area delle costellazioni, nell'ambito familiare gli inconsci, questi bagagli, se non risolti, vengono questi sacchi vengono scaricati alle generazioni successive, non in toto naturalmente. Ma io ad esempio mi sono confrontato con molti terapeuti anche di altre estrazioni completamente diverse dalle mie, con psicologi, con counselor, insomma, che nel loro percorso di insegnamento, di gruppi, eccetera, si accorgono facilmente di come ci siano persone che hanno ricevuto bagagli psichici dai loro genitori, a loro volta dai nonni, e così poi li hanno riversati sui figli. Come? Il karma familiare. È un karma familiare che ad esempio svelano le costellazioni, se ne avete mai sentito parlare, immagino, le costellazioni familiari, con tutti i pro e contro che ci sono, ma lì vengono svelate queste cose. Perché? Perché se non risolte, non è che muoiono, ma anche, è molto facile anche da comprendere, vengono semplicemente fatte ereditare, tramandate ai propri figli nel nostro modo di educare, giusto? Sì. Perché se a noi ci hanno inculcato o detto certe cose che hanno messo via, che hanno negato parti di noi, perché ci è stato in qualche maniera, siamo stati educati in questo, è quasi matematico che noi, quasi, perché poi le persone crescono, lavorano su di sé, non è detto, se non risolte, se non sciolte, semplicemente veicolano lo stesso modo ai figli. Capite? Ecco perché è importante, perché ad esempio io ho conosciuto counselor, persone che hanno lavorato su di sé troncando, risolvendo alcune parti del proprio carattere e del percorso familiare, e quindi non è più diventata un'eredità per i figli. Anche questa è una cosa abbastanza interessante, no? Sì. Ma posso chiederti brevemente, scusami, costellazioni familiari? Sì. Come avvengono? Allora, io non sono un esperto, però sono stato cavia per molte volte, perché ci sono varie modalità. Di solito c'è il costellatore, che è colui che insegna e che porta la costellazione, ma si tratta di mettere in atto una specie di scena, una rappresentazione, meglio non mi veniva il nome, in cui c'è una persona che si mette a disposizione perché ha o vuole tentare di capire questo problema, e mette in campo delle persone che sono presenti, i genitori ad esempio, o i fratelli, o i nonni, chiedendo, il costellatore che ho trovato io tanti anni fa mi ha chiesto, posiziona tua madre nello spazio, ad esempio, no, l'hanno messa in un certo luogo, posiziona tuo padre nello spazio, allora prendevo una persona, la mettevo da qualche parte, e poi il costellatore fa una serie di domande attraverso le quali emergono parti di noi che sono parti inconsce. Ecco. C'è proprio una rappresentazione che fa affiorare. C'era una serie TV che io guardavo molto volentieri perché parlava proprio delle costellazioni. Era fatta benissimo, turca. Se mi viene in mente la prossima volta ve lo dico. Ma io penso che ci sia tutto dentro, però tirare in ballo la fisica quantistica è molto difficile, insomma, molto difficile. Però è chiaro che c'è un po' tutto, perché... Un film documentario che è interessante, che ha fatto Jodorowsky. Ah, sì, lo conosco. Spiega, non è il meccanismo delle costellazioni, ma è simile, sì, ed sì, è sì, sì, esorcizzante il problema. Certo. Vengono messi in campo gli elementi del problema, per esempio... Non so, io ho un problema con il sonno, chiamo lei è il sonno, lui sono io, loro non mi conoscono, non devono sapere niente del problema perché non devono essere influenzati, viene rappresentato il costellatore. Certo, questa cosa. Certo. All'inizio sembra assurdo, però funziona. Sì, psicomagia. Sì, la psicomagia di Jodorowsky, sì. Io ho lavorato tantissimo con i tarocchi anche, a livello energetico. Beh, è potente lui. Beh, lui è molto potente. Strano, anche strano, però molto contento. C'è ancora il mondo che paga di quasi 100. Penso sia ancora il mondo. Sì, era 88, non si era arrivato nel 90. Va bene, io vi ringrazio tanto. Domande, perplessità, magari fatemi avere qualche. E se ci vediamo la settimana prossima, cominciamo l'ultimo tassello del puzzle, ok? Fai un appunto se te li in mente da scrivere e serie televisive. Sì, mandami un messaggio. La serie. Mandami un messaggio, ricordati. La catena di Sant'Antonio. Se prima si dimenticano tutti. Ricorda di mandarmi la registrazione. Quanti anni ha? 65 anni. 65 anni. 6 oggi. Ma cos'è il problema dei